sì. C'è nessuno sul canale Deghe, Deghe? C'è nessuno sul canale 10, 10, 10? Cattali, cattali, Natalino, attento Natalino, Natalino, Alfa 1-1, dove è il cane? Il cane è bescio, non bisogna leggermente. Natalino, che è? Cartone, tu sei? Dimmi, che è avanti, passo passo, chi è? Cicu, cicu, cicu, cicu. Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu. Ombre, ombre, ombre, ombre, ombre. Aiuto lei. Lì c'è il microfono, glielo so che ci sei. Valerio. Valerio. Giuseppe, ci sei? Giuseppe. Giuseppe, Peppe, Peppe. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto. Se va a fare necessità. Cos'è? Se ti sei svegliato adesso. No, negativo, sto facendo cose. Ho preso qui un mazzo di chiavi, vaffanculo. E beh, fatene la prova col presente. No, non ho avuto tempo. Attacca Isu, attacca quello che non disturbi la Tari, sono sicuro, va. Ma cosa? Non so che non si se con questo lo stai disturbando, se no è aiuto di Dio, no? Sono acceso appena lei. Ho capito, ma sicuramente non stai disturbando con quello lì, quindi è la radio proprio. Adesso vediamo. Cazzo, va a vedere, no? Cazzo, va a vedere. Cosa ti costa, cazzo, va a blu, va a blu? Cioè, sì. E metti quello lì e va e provi a vedere, no? Meglio di trattare Chiscio, tratti un presente, no? Ehi, vabbè, ma sono solo adesso qua. E vabbè, più tanto tu piatta, a pure, se vuoi la frizzina, cazzo, tu, no? Ho capito, ma perché quello va bene insegnare, ma c'è la radio troppo bassa, cari, capito? Troppo basso del radio, sì. Invece l'altra, il presente funziona bene con MB+4, capito? Dice non ha spurie, vivo troppo forte, non vedo dove vanno. Adesso vediamo. Eccolo là, è troppo forte, cari. Troppo forte, cioè non si mette a posto quello là, capito? Non vuoi trattare Isu, però il presente esce bene, meglio di Isu, eh. Attento Marco, ratta pignara, pipistrello, dove sei, cambio? Marcolino, cos'è che pesce una pelle di chiavi? Chiavi di cosa? Poi dopo 2 anni si vedrà. No, no, no, fortuna. sai mai quando rientri, capito? Ti chiamano, beh, passi lì, tra l'altro mandiamo iscritto al telefono, poi ho dovuto mollare, scendere a Canica, un po' per le visite, poi sono andato a Sorso, da Canica sono andato a Sorso a portare la, il fiorino, ho preso la mia macchina e sono rientrato, erano le 3:15, sto più pronto, stavo nella regia. Con paura in tutto. Anch'io devo uscire alle 2 oggi e mi ha mandato a chiamare Gianni. Sono andato e ho detto guarda che ti vuole Gianni, mi hanno detto questa commessa. Sono andato e cosa c'è Gianni? Erano le 2:10. Guarda che è arrivato uno a scaricare 41 colli di coso, di mulino bianco. Ma sai come ci avevano questi culi? Tutti sparpagliati nel camion. Devo stare 3 ore a cercarli. Ascolta, questa volta ti scarico, la prossima volta non ci vedi nemmeno alle 2, perché noi lo scarico lo facciamo sino a mezzogiorno, per cui se sono le 2 non ci vedi nemmeno, anche me ne c'è da andare. Funziona. Avanti, buonasera. Adesso non funziona qua. Ma è radio, Natalia, aumenta la radio. Bella questa radio tua già, cos'è? L'MV+5? Questo no, questo qui è il coso, come si chiama? Ma Lecco Master Plus. Ah, quello Saletta? Ehi, Alecco, sì, è Saletta. E con cosa? Con Galaxy? Ehi, a... Sì, già, buco. Ti metti di questa quella legge, usa, porca miseria, bella radio, bellissima, bella amplificata, bella forte, chiara, molto bella, anche le tonalità mi piacciono. L'ho passato anche il volume, perché Luca mi ha detto che c'ha troppo eco, adesso se ne sente di eco. No, lasciala così, senza eco, è forte, senza eco è fortissima, bella amplificata. Cavagava. Sempre quello ho avuto mi Claudio, sempre questo qui usavo, solo che lo usavo con l'eco. Come mettere eco? Usa eco? È bellissimo mettere radio, molto molto bella. Lo sai che io sulle radio sono molto schietto, è bellissima, molto bella, forte, bella, chiara. Cosa ne fai l'eco? Diciamo che io mi sono sempre riconosciuto per Nino Torre Bravo, per l'eco. Anche Nino Torre Bravo c'aveva l'eco, si riconosceva da quello. Sì, vabbè, ma questa modulazione è molto bella, usa sull'eco. È molto bella già, bella amplificata, le tonalità giuste, molto bella, mi piace. Pensavo stavi usando la MB+4, la MB+5. Natalie. No, non ce l'ho più quello lì. Avevo fatto scambio con Stefano, ho dato le MB+5 e mi ha dato questo. Bella modulazione, bella veramente già. Stai sereno, se te lo dico io così. Bella modulazione, corposa, bella forte. Non c'è bisogno di eco. Natalie. Non funziona. Cosa non funziona? MB+4. Nulla, non funziona, né l'MB+4 né il coso, né il disco. Non ricevo. L'ultima c'è, prima funzionava. Avevamo detto durante una sei sfigato, allucinante, mica non funziona più il presidente con MB+4. Riusciva ben bene con la radio. Ma che cosa c'ha l'apparato che non funziona? Il presidente Lincoln con MB+4 invece di attaccare l'Omega Force, no? Che disturba. Aspetta, di attaccare quelli. Cazzo non attaccarlo non funziona più. No. E come mai? C'è qualche fusibile che sia bruciato. Usciva un bel bene con MB+4 con il presidente Lincoln. Allucinante, i vestiti della Chini. Poi funziona, a me non funziona. Vabbè, questi miei 430 e 440 sono mitici. Anche se 80 è tutto messo a posto, tutto messo a posto, tutto revisionato, è perfetto. Adesso sto usando Massimiliano, funziona perfettamente. Era tutto da vedere alcune cosette. Questa è una bottezza, sono radio allucinante. Sono radio da battaglia quella. Però sono già radio che sono un po' vecchie e cominciano a dare problemi le radio lì, perché hanno sia state usurate e da lungo, diciamo, quando tu le usi molto, a lungo usaggio, le usuri poi alla fine i componenti. E alla fine poi partono e devi cambiarle. Un po' così sono quelle, sono belle quelle radio, ma hanno un mediano. Sì, già, io non ne ho mai avuto problemi, io ho 440, se tu ti immagini che stanno tornando tutte a me queste radio, anche se 80 era il mio, anche se 80 era il mio, però bisogna vedere come le usi, capito? Non sono radio da tenere in cucina queste, perché quando ho aperto il 80 mi sono spaventato. Dentro cioè era tutto incollato, proprio la cosa della condensa. Non sono radio da tenere in cucina, queste sono radio da tenere così come la tengo io. Se tu vedi il 440 mio, che era il mio, io l'avevo venduto a Roberto Quadratto, Roberto non lo usava più e si è completamente zittito, capito? Completamente zittito. Se ne ha comprato un altro per non riparare questo. Io l'ho mandato da Bianconi, me l'ho fatto tutto revisionare, perché la radio è nuova nuova. Le radio vogliono usate, messe nei posti dove stanno bene. Se tu le metti in un posto dove c'è condensa, non ti muovono in una radio in cucina, quanto vai a una radio in cucina? Non esiste, capito? Non esiste. E così si ho tante, una cosa allucinante. Quando l'ho aperto mi sono spaventato, prima di toccarlo l'ho dovuto lavare tutto con la pierina, tutto con la pierina completamente, fatto al libro, tutto aperto, lavato tutto con la pierina, capito? E poi infatti c'era la ventola che non entrava in funzione perché era tutta inchiodata, una bella sporcizia. No, non sono radio da... bisogna sapere anche tenere queste radio. Io ce li ho anni. C'ho 430 che è mitico. 430 c'ha un falso contatto che si spegne, un falso contatto che non lo voglio toccare perché lo mando, ne approfitto, lo mando a revisionare anche quello. Capito? Però è perfetta la radio. È chiaro che un falso contatto può succedere, ma metterci le mani, andare a cercare, fare... Mi approfitto, lo mando a revisionare anche quello lì, però cazzo dentro sono ordinati e puliti. Ho mandato le foto a prima e dopo a Marco delle Resio 80 e sul Fabio. C'è uscito nuovo, capito? Era una bestia, quello era il mio lo stesso. Me l'aveva fatto Carlo Carbone, c'è il finale a MOSFET e quello, da 150 watt di portante, 180 modulati. Io so, me lo ricordo, che l'avevi fatto fare con il finale a MOSFET. Sono radio che popano forte, si possono anche truccare e fare, ma anche questo, il Gala 61 Eco, si può fare a 100 watt, me l'ha detto anche Pitturio, basta cambiare i finali e qualche componente e te lo porta a 100 watt, ma chi me lo fa fare? Voglio 100 watt e già lo sai cosa faccio. E già modificare così quelle radio la sai fare già, però ti ripeto, io dall'83 che uso questa radio, baracchini, ne ho usato ben pochi, mi hanno creato sempre pochi e pochissimi difetti. È chiaro che il 440 se non lo usi fa il difetto che tutti conosciamo, si scaricano i condensatori, il display quando lo accendi tutto a puntini. Sul radio bisogna usarlo in una certa maniera, il 430 invece è più meccanico e meno difettoso del 440. Infatti io mi sono tenuto il 430 e il 440, sì, 80-140 li avevo dati, ma ce li avevo tutte e quattro, lo sanno, quindi non mi hanno mai creato problemi assolutamente. Il 140 è un'ottima radio se va usata come deve essere usata. Se poi la tratti a culo di scimmia allora è diverso. Soprattutto non bisogna metterci le mani se non sei la testa di battaglia a fare, perché io con la mia esperienza vissuta in queste radio, sia sul 140 che sul 80, che sono quelle dove riesco un po' a armeggiare, qualcosa la faccio, ma non tutto quello che ce la fa. Però 440 e 430 io non li ho mai toccato perché sono completamente diversi e conviene mandarli a chi è di competenza, capito? Vediamo Natalino, Natali, stai controllando, cosa è successo? Non messo Natalino adesso. Ho chiuso il bacile del vicolo, lo sai, sta disturbando quello del vicolo in fondo. E sono a ferri corti. Ma quelli del vicolo dov'è? Allora, non disturba la televisione sua, non disturba quella che c'ha di fronte, non disturba quello dove c'è attaccata l'antenna che è tutto pieno d'antenne. Venite in fondo ad un vicolo con un'antenna vecchia. Adesso a ferri corti sono. Allora vieni, si tuffa d'ora e ne voga tutto. Lo so, so, quando rompono le balle così, lo so anch'io. Si sono passato, già lo sai, articoli sul giornale, fuggitivi sotto i portoni, l'ha fatto tutti i rigoroni, da poi si è impiccato. Sì, già lo so, sì, già lo so. Lo so già, io non ho mai avuto questi problemi perché ero tranquillo, poi io sono a 40 metri di altezza, non ho antenne davanti, non ho niente, quindi sono libero, non ho mai disturbato, però quando si è così a me mi smonta subito, capito? Che abbiamo fatto un curva con gli antenna per appunto far rientrare la tarina, noi voglio che imbecille non prende l'anima. Adesso vediamo se si riesce a risolvere, se lo tiro, ma è andato a attaccare il presidente e non funziona più il presidente, la razza di figa. Cosa sarà successo? Strano. Claudio, poi da, dimmi Natalino. Aspetta, beh, ecco. Guarda un po' scendo, so. Alla grande. Alla grande, 9 più 20. Sì, vabbè, però c'aveva qualcosa da apparecchio. Sì, apparecchio, io funziona. Ascolta, metti la bassa potenza, 5 watt, quello non è applichi in modulazione, 5 watt. Lascialo così e vediamo cosa succede. E così è. 5 watt. Di che modulazione non ne ha, no? Sempre 5 watt ti sta segnando, non è come te lì che da zico da via 40, no? No, no, sarò a 9. Con gli apparecchi lì vanno bene in macchina, Natalie, disturbano quegli apparecchi perché sono un bel puttino. Ma è il mio con 40 watt perché non disturbo il televisore, c'è l'amplificatore anche. Boh, spiegamela va. Chi lo sa, sono misteri dell'elettronica qui. Ci sono apparati magari che disturbano e apparati che non disturbano. Magari anche con gli stessi watt, perché io usavo il Kenwood, non mi hanno mai detto mi sta disturbando col Kenwood, niente, con 140, mai di tutto. E lo usavo anche con 50 watt. Ma è questo qui che ha l'antenna messa male, io penso che lo disturbo anche per l'omologato. Tu da sa dove uscire va, però vediamo se si tornacerà, c'è così. C'hai 5 watt, però almeno la radio è forte. Quella là, Natalì, il segnale è uguale a questo, però la radio è troppo bassa. Lo so, microfono normale. Se non è che rientri perché hai l'amplificato, Natalì. Come? Ho detto, se non è che rientri in antenna perché ha spuri il microfono. No, no. Si era con un microfono normale prima in ghisastro, sempre con un microfono normale. Ma guida che grande normale non è normale, la stare chi si so, c'hanno queste cose, processori, c'hanno tutto quanto, insomma sono molto furti come microfono. Vabbè, la so che la tendizio, va. Ma ce la c'è questa la carica, va bene. Ma l'ha detto Marco che lui non lo usava a casa perché aveva sempre paura che, capito, che disturbasse, perché siamo più un attore, siamo una radio diversa. C'è questa. Capito, la c'è questa. Ma se quella là c'abbia qualche armonica che disturba, la salita, e si vedrà. Chi vedrà saprà, saprà chi vedrà. Chi vivrà vedrà. Tutto mai, stamattina si stava bene nonostante era nuvoloso. Adesso si è messo un freddo di nuovo allucinante, è andato pioggia. Lo so, perché sono a maniche corte e c'ho freddo, io di solito non soffro il freddo, soffro il caldo. Però c'ho freddo a maniche corte, infatti se qualcosa dai whisky. No, vai, vai, mettiti qualcosa, io mi messo la una giacchetta leggera, c'ho la finestra aperta, io ero un po' d'aria. Però c'è freddo e... ha detto che pioveva. Eia. E Marcolino Conda, non si è sentito? Sì, la tappignata. Ehi, Natalia, ascoltami, non si è sentito Marco? Io l'ho acceso adesso. Bipa, ne ho. Adesso no. Ehi, toglielo, si sa mai che entra liscio. Attento, Marcolino Conda, noto ratapignara, pinnudo. E poi adesso è un bel strano a fare TV, con le frequenze, cazzo, che sono un bel lontane, come cavolo fai a digitare a fare TV, buh. Ciao, la l'antenna senza massa, non hai compreso? Che non gli sta facendo massa l'antenna, gli entro per quello. Tu è vecchia l'antenna, dice che c'è 5 anni, però è di tipo vecchio, non è per il digitale terrestre, capito? Ah, ecco perché. Ce l'abbiamo fatto il contrario, prima di uscire l'abbiamo già piazzata con la digitale. Prima di uscire, con l'uscito digitale 3 ce l'avevamo già. Io ce l'ho lo stesso, c'ho l'amplificatore, c'ho tutto, e non riposo, ma manco una friccia al televisore. Ma con ghizzo, no con ghizzo, con quello là. E allora è in effetto. Avrei dovuto disturbare anche l'altro che attacca, quello che mi ha permesso di mettere le mie antenne sono su il palo di un altro, quindi avrei dovuto disturbare anche a quello là. E subito mi ne ha aiuto che ci l'avevi sui padri. Mi è giunto male il rumore perché il palo sbatteva la mantovana, mi vira a Claudio. Non l'avete fissato perché lì della mantovana? No, quando c'avevo il vecchio palo, no. Venne scesa un'antenna TV intera, venne scesa sopra il mio palo, me l'ha indebolita e andava a Gai e Gui, perché era senza tirante e senza niente. E praticamente sbatteva nel muro di quell'altro, di fianco, no? E cazzo, e subito mi è giunto mi. Vabbè. Stamattina sono venuti i carabinieri. Stavo mettendo il roll dietro il capannone del negozio. Se mi fanno, ci hanno segnalato questo rumore qua che proviene da questo stabile. Andiamo a controllare, se il rumore non veniva. Il rumore c'era, però non era dalle ventole dei motori, perché loro pensavano fosse quello. Sarà qualche uccellino, ma che uccellino? Appeso, guarda, c'era un camper giù, deve essere che ci hanno dimenticato l'aria condizionata attaccata, voglia, cicolava. E subito hanno chiamato i carabinieri, sentivi, non puoi fare nulla. Allora una volta stavo ingrassando le serrande con l'olio bruciato e con la nafta, no? E praticamente deve essere nel pennello, ne ho messo un po' di più, ma ne è sceso appena in terra. Allora avevano chiamato i vigili e dice, imbrattamento sono pubblico. Ma quale sono pubblico? Questo qui è solo del negozio, non fa parte del suo pubblico, gli ho detto. Poi adesso pulisco, mi è sceso un po' di olio, ma non è niente di cosa, no? Subito hanno chiamato. Ma per immagini, che pezzetti. Sì, sono così. I carabinieri paghi sui rumori, buh. E quindi sono giunti con la cartella in mano, mi pronti a buttare la muccia. Quindi se mi aveva buttato la muccia a imbarazzamento del suo pubblico, io l'avrei contestata malamente. Se il negozio è del negozio, il terreno, che cazzo voglio, non è solo pubblico. Ma infatti, perché c'era il marciapiede vicino, capito? Ma poi non arrivava a marciapiede, ma era nel marmo del negozio, perché dove c'era la serranda notte c'era il marmo sotto. Ma quello pulito, non è che... E la volta che mi ha suonato l'allarme della macchina, io ero fuori col furgone, ha suonato l'allarme della macchina mia, che ha trovato i vigili del fuoco, cazzo, stavano per spaccarmi il vetro della macchina, perché io l'ha chiamata, ha detto che si sentiva male e volevano staccarmi la batteria. E guarda un caso, amici, da viene tagliato, lì ci hanno tagliato i vigili della batteria. E già lo so, ti spaccano il vetro, ti tolgo... Ma devo pure denunciare, perché cazzo non posso fare cose del genere, io non ho capito. A parte che se stacchi i fili della batteria, continua a suonare l'allarme che c'avevo io, continuava a suonare, anche se staccavi la batteria era tagliata. Perché gli allarmi hanno le batterie a tampone, capito? Quindi io ho provato a staccare il filo e funzionava lo stesso. Ma infatti non ne ho più messo l'allarme in macchina, mi ha dato solo problemi quell'allarme, chi tu si acciarava, ma quell'allarme perché non se lo fa regolare, cazzo, saltavano i gatti sopra, e subito suonava. Beh, è logico, perché la macchina. Se ne va, va là, insomma. Ma ti portava solo problemi con la gente, capito? Lui ha messa dicendo a questo parte di fronte. E ha messo dicendo se lo faccio controllare quella là, ma è peccato che sono venuto da lì a Piazza Rosengarina. Quello che ci aveva, quell'elettrotto che ci aveva il mio bugino prima. Non so come si chiama. Era un elettrotto che c'è mio bugino, te lo ricordi la tra... E così ha detto, peccato che non sono venuto da lì a farmi la piazza. Allora, così l'ha giudito. Che ha detto di cosa? Che se non facciamo regolare quell'allarme che è stato piazzato male, no? Se è stato il gatto sopra con quella macchina normale chi sono, no? Un attimo dove la mangia il cane. Via vai. Ma sta mangiando tranquillo Filippo, il mio sta mangiando poco, lo sai. Sta mangiando a piccoli tipi. Mi faccio la carne, tutto quanto, le tocca appena appena e poi la molla. E la sera poi, la sera, quando c'è fame si mangia tutto, si mangia la roba, perché non gliene faccio di nuovo, se le faccio mangiare quello che le ho fatto a pranzo. La mattina te l'aveva fatto. Grazie a Dio, Filippo, si va a pranzo, via cena. Mangia sempre la stessa cosa e molto molto volentieri perché le piacciono bene. Noi non ne ho più, ne avrò se no 7-8 kg di crocchette. Devo dire di nuovo la prossima settimana, figurati. Mi hanno comprato un sacco di vetri di cucchini, figurati. No, Filippo già è di buona forchetta, poi quando lo mettiamo a mangiare sta vicino a noi, le do un pezzo di mela, un picco di frutta così. Che adesso lo preparo la ciotola e poi le prendo subito. Qui è entrato uno col bulldog francese in negozio e praticamente mi ha chiesto se potevo entrare il cane, poi va a prendere in braccio perché in un negozio alimentare non potresti entrare, però se lo prendo in braccio tanto non è grosso e me l'ho fatto toccare, mi ha detto qua è tranquillissimo, cazzo sembra fatto di mango, non si muove in mango, il tetano rimane. Il bulldog francese sì, è molto più pauroso. Io addio ci entro, non è utile. Io a me pare entro, quasi tutti assassi, soprattutto la doccia, la doccia mi c'era anche a tavolino col cane. Io addio ci entro, chi mi dice a Filippo il brato, guarda chi, e te lo muovo, dai fa un carrello. No, Filippo è pesante, e il bulldog francese è più fino, più piccolo. Era bello, perché era bello, però... rimaneva a tetano il grappa, gli ha fatto finto sembrava, dicevo non si muove nemmeno, vedi che non si muove nemmeno, è bravissimo. No, già non mi piace la Reci, c'è la Mario, la sorella di Mario c'è quello che è francese, no, non mi piace la Reci, ma un suo io passa, ma un attimino che devo mangiare a Filippo, che prendi la testa? Natale, e tu Natale cosa li stai andando a mangiare? Penso Natale. No, sono salito adesso che sono sceso a prendere il cane che non voleva salire da solo. Mia moglie me l'ha messo dentro il portone e l'ho dovuto prendere io. E cosa vi date Natalia a mangiare voi? Crocchette? Crocchette di tutto. A chi è dovuta la roba che mangiamo noi? Non preso dai. Lui crocchette non ne vuole, però gli si rimane, allora si va mangiati. Ma le mie le devo mischiare, insieme all'altra roba. No, io gli faccio il pasto apposta per lui. Gli cucino la pasta per cani, quella le verdure, poi gli metto un petto di pollo, poi gli metto carne macinata di cavallo, le verdure, zucchine e carote bollite e schiacciate, le metto in mezzo, e poi le crocchette. Gli faccio un pasto completo. Anche il riso con la carne macinata, dagli che gli fa bene a casa. Già lo mangia, ma non gli piace assai Natalia. Il riso si mangia la carne, poco poco di riso e quasi tutta la carne, e il resto lo lascia. E l'onfio, ti sto dicendo, mangia di più la pasta che il riso. Cioè lo do il riso, sì. Però bisogna togliergli la crema che fa il riso, quello lì non gli fa bene. Io fa diarrea, bisogna togliere quella crema che c'è e glielo dai. Ma di solito, ma bisogna fare la roba senza sale, i miei cani. Non, il sale non lo posso mangiare. Non lo so, ma a lui gli piace la roba che mangio io, capito? È l'occhio visto. Mi viene tieni con la zampa e mi tocca, e beh, a me non me ne dai. E il gol che ti chiede, beh, a me mi appoggia il muso sulla cuscia quando sto mangiando. Senti, chissà cosa caccia a galla, poi mi ammaita così, non me ne dà un pezzo. E avanza. Ma io gli faccio anche le cosce di pollo bollite, però senza sale, bollite con l'acqua e buco. Le faccio 4-5, poi con le senza sale le do a lui, gli tolgo tutte le ossa, tutto quanto, gli lascio solo la cartilagine, gli do, e le cusci. E l'altra metà mi metto il sale, un po' di maionese, io me la mangio pure lui. Io pure mi devo il capo rosso, ma allora se mi devi da qua? Quelle di pollo no, le fanno male, mi bucano l'intestino e lo stomaco. Sì, almeno l'hanno bucato un Kaiser, ma già tu le cosci in tre di buono, cazzo ce l'ha mangiato con l'osso. È proprio visto che ti piace il rosso, hai tu. Ma le ossa del pollo sono pulite e non si danno ai cani. Lo dico anche il veterinario, non è che lo sto dicendo io. Non si danno perché essendo appuntite mi buca lo stomaco e anche gli intestini. Poi, se riesci a frantumarle, impartisci in parte piccolissime e non li vale niente, ma se ti trovo con l'appuntito fa male. Le ossa che si danno ai cani sono quelle grosse, quelle del prosciutto, per dire, l'ossa del prosciutto, della cuscia del maiale. Quelle grosse grosse, vedi, senti dei rossigheni, tutta la lì, ma quando ce l'hai in campagna, in casa ho tipo pulito su, tutto pieno di grasso, di cose, hai portato tutti i tappeti, tutto grasso. Io le compro pure le ossa per casa, allora mi ha detto un paraduno, è proprio degli animali, ma tutte le ossa, e le devo mangiare, così c'è un paio di rossigheni. E anche io le compravo quelle. Cioè, in un giorno non aveva più, e frantumava quando era piccola, adesso non è, ce ne ha uno intero e non lo tocca nemmeno. Non ne sta più toccando, è così quello a fare per i denti, quegli stick per i denti. Li agli occupati, non li tocca, ecco, non li mangia. E molta gente glieli dà e si puliscono i denti con questi stick che vendono, no? Che poi basta dare le crocchette e si ripuliscono lo stesso, perché ruzzinghetti si ripuliscono a stessi. Oh già, no, io l'ho comprato però in farmacia. Che cosa? Quello per i cani, quegli stick menta, vale, per i cani comunque. C'è il gusto alla menta, per il bulldog è molto, mi fa bene, capito? Romantica e sono fatti praticamente tipo un ingranaggio è fatto, capito? E quando uno lo mastica con i denti lo va in mezzo e li pulisce anche. E quelli che ho comprato io sono, non l'ho preso in farmacia, l'ho preso in negozio di animali e sono alla menta lo stesso. Allora, la prima volta l'ha gustata e l'ha toccata anche mangiata, poi non ne ha più toccato, non li piace di più. Ne ho comprato tre bustine e cazzo ce l'ho tutte ferme a casa, chi non li tocca. Poi là sono girati in casa, i cani sono trattati talmente bene che poi ti rifiutano le cose. Per dire, penso in questi giorni vi faccio la carne di cavallo con il suo pasto, come lo faccio sempre, non le tocca, cioè le mangia appena appena di carne, si mangia se ne va. E ieri ho detto, beh, ce la buttavo sempre, ho detto, che affesso basta. Ieri ho preso la carne in gusta, ho preso, gli ho messo la ciotola a pranzo, mi ha gustato appena appena e se ne è andato. Ho detto, allora rimane in chimi. Di mangiare il sotto il vostro asso. Poi stamattina non ce n'era un pezzettino, nulla, proprio tutto leccato. Cioè, lo devi abituare così, o mangi quello, non mangi altro. Filippo, da piccolino, grazie a Dio, demo la forchetta, perché avete mangiato gli sticchi, gli sticchi se li dai la bustina, se ne mangia una bustina. Se non li usi, quando per buttarli, li dai a me, te li pago, li do io a Filippo, capito? Quando ci vediamo, ricordati, se non li mangia, così, perché poi scadono, capito? Non conviene darglieli, diventano mollicci e non va bene, perdono tutta l'ala. No, io l'ho preso qua da casa, diciamo, l'ha fatto anche il veterinario, capito? Anche le medicine, quando stava facendo la cura, me le portava lui dalla rifarmacia. che ciò ci sia di peggio. E poi c'è il peggio di ringhia, di bombolano di pubili. Quando vengono in ringhia, lo devo chiudere perché se no li musica. No, perché fanno rumore con la bombola e si incazza. No, no, no, ma glielo chiude, solo c'è la bomba e quindi, capito? E salta sopra a giocare, però prima le musiche c'erano i piedi. E allora dice, dai, fermo, lasciami i piedi. E tra quei due entro, piano piano, tu quando cambia la bomba, che lo paga, allora le salta sopra, lo conosce, capito? Perché viene sempre, sempre lui. No, ma quelli che conosce già, già il giocherellone, quelli che non conosce pure, non strada, anzi, aveva un po' più calmo, prima, forse era più cortisone che lo fava. Facendo impazzire, no, mira nonno, ciccio, ciccio di merda, vieni, se papà è un pizza faccio la guascio, Natalie, è vero cosa voglia fare con me, con chi su Filippo, ma che, Natalino, senti il colore del cane, se lo voleva trombare, lo so, anche il mio, era tappignaccio, lo fare. Vabbè, ma faccia Marcolino, sai, lui è così, lui piace, anche ai cani piace, capito? Lui è la bocca più baciata di Sassari. Marco Conto, che fine fa? Dove sono? 18 e 40, ah, Portamone è andato a portare il gelato alla ragazza. Marco, l'altro giorno siamo andati a Platamona a farci un giro e ci ha chiesto il caffè, cazzo, certo se li compravamo il caffè. E glielo portavo un altro, no, sono amici, vediamo io, dove porta il caffè, l'altro giorno gli ha comprato il gelato. Il pigiatino li porta, io di la verità, Claudio. Ma è vero, e quando la mamma fa il pranzo, capito, lui scende la sera verso le 8:30 con la scusa di andare a guardarsi il telegiornale. Scende dalla ragazza e le porta il pigiattino, capito? L'altro giorno mi ha fatto tutti gli armadi, altro che c'erano coperte vecchie da buttare, tutto l'era. Ecco, avanti. Mamma, buonasera a tutti, guarda. La cosa è bella. Ciao, ma ci vediamo, buonasera anche a te, dai. In compagnia di Claudio e Natalino. Ok, dai, saluto Natalino, saluto a Claudio. Buonas tardes, ciao Massimiliano, buonasera e ben sentidos, voi Natalino. Ciao Massimiliano, buonasera. Buona, buona, io sento poi il propagatore che c'è sotto. E già va bene a Scida. Già va bene, non è tutto sudato, già va bene così. Ma sapete, il fumarale se vuoi vedere, lo sapete, sei tutto sudato. Ah, no, pensavo che riferivi, mi bombolaio, mi aspetto che vada a aprire, riprendi già. E dai, dato, che ore sono? Le 8:15 sono le 18:45 la precisione. Ma allora già presto ancora, pensavo le 8:15, stavo già per andare a portare giù a Tyson, ma via. Poi con l'abituato che alle 8 cominciamo a bugnare e cominciamo se non lo porti giù fa un casinone. Io mi allontano un secondo, riprendo dopo, via Massimiliano, dai. Ti piace la radio senza checco? Sì, va bene, però sì, proprio quasi al limite dell'innesco, non vedi? Un'idea passare, ma proprio un'idea, perché ogni tanto fa un fischio. Guarda come, così bene va. Sì, così va benissimo, va bene. Andava, mi era molto alto. Guarda, riprendi. Come l'hai chiamato? Ah, Kurt l'hai chiamato, è vero, come il cane pastore tedesco. Previa, via. Cos'era Mimula e Duburi di Bome, no? E allora, se non lo porti giù a quell'ora è un orologio, perché devo dire grazie a lui l'altro giorno. Allora, all'inizio della settimana io mi metto tutta la sveglia della settimana, no, per andare a lavorare. Alle 6 metto lunedì, martedì e tutti i giorni della settimana. Me ne sono proprio dimenticato di me. Vedromo e alle 6 io mi alzo. Erano così le 7:15, ero ancora dormito, è venuto lui e mi ha svegliato, lui si no, a travagliare per andare, dove ero soltanto io. Ah, la sveglia ce l'ha interna quindi. Mi ha leccato la faccia, mi è saltato sul letto e mi ha leccato la faccia. Ma certo, guardo lui, tipo fantuzzi, che c'è. essere presente. Tutti in presa, e sono arrivati in orario. Se no non è geloso. Mi vede che mi bacio a mia moglie, cazzo ne viene lui abbaiando, cazzo non vuole, è geloso. Ehi, sono così, cara. Lo so, sì. Ehi, ma diciamo che quello che dà un cane non dà manco una persona, l'affetto che dà il cane, a me quando torno a casa mi capita un gusto, mi dica. Ehi, se no a me. Ci sono obbligo di educare a gatta, se io voglio accarezzare il gatto, lo devo fare quando non c'è lui, perché sennò è geloso fradicio. Ah, è vero che c'ha il gatto con Celia, non lo ricordavo più, e vanno d'accordo la cazzo. Ella si rivede a far rendere il gatto, lei roba di matta, gli dà, solo che non te le unghie, mica. Forse perché lei c'era da prima di vedere il territoriale, cazzo, quando tu l'hai portato lì c'era già, capito? Allora, ce lo bufava prima. ma, cazzo, aveva dormito in un tavolo di divano, si è nascosto la faccia nelle zampe. E sta con un occhio furbillo e l'altro guardillo. Fa così quando le dà fastidio la luce, a che tezzo lo fa? Si mette la zampa davanti agli occhi. Ma è troppo simpatico. Come mai lo scrivisto di prenderti un cane, Natali? Ti è venuta la buglia quando ti è morto il cuspe. Ah no, io non ne volevo. Il cane di mia moglie. Ah, non ne volevi tu? E vabbè, è la compagnia. È bello il cane, è più bello del gatto. Tutto sì, a me il gatto non mi piace. Però non ne volevo, a chi tocca bucare, un cane è impegnativo, ma è come te la iatta che fa 20 minuti, che fa la sua cosa per fare i bisogni, se il cane lo riporta, e poi dice che devi stare a mimura. Il cane se ce l'ha in campagna non ti dà nessun problema, chi anda, a parte che ci devi fare e basta. Ma quando ce l'hai in casa lo devi per forza portare, anche se piove, se fa neve, se è grandi, lo devi sempre portare. Io quando pioveva andavo sotto le palme e li facevo fare i bisognini sotto le palme. Avevano in Italia di un burro in banda che siamo nati con chi su, come si chiama, Pinterolo Rosso, le ha tutte quante fatte scendere, le hanno tutte tagliate. Maledetto è quello, le rovina le palme, uno due ne hanno tagliato. Oh, Natali, Mario, già lo conosci il bombolaio, quello di via Cogio, vicino a volta del meccanico? Sì. Per carità, vite l'ascensore ti ha portato. Ecco, aiuto, ha portato la bombola sopra, aiuto, vai, però tu fai le scale, io faccio l'ascensore. L'ascensore è entrato in paese. Una cosa allucinante. E Massimo, c'è? Cioè, Massimi? Dove è andato Massimiliano? Si sarà spostato sicuramente. Ho detto che riprenderà più tardi. Allora, c'è più me, come ti va a vedere da me su luci, l'occhio, c'è più la faccia in mezzo alle zampe, e sta con un occhio pulito e l'altro guardino. Io se gli dico, andiamo giù, questa frase qua, grida le orecchie subito, come gira la testa, non so quanto fa ridere. E così fa Filippo, così fa Filippo, io, andiamo? La prende con un po' di traverso e addrizza la recce, che poi non la addrizza tutti la recce. Beh no, anche peggio, però si vede che la addrizza perché la posizione rilassata le fa addrizzare un po', no? Sì, addrizza il coso, però la cartilagine no, rimane muta. E va le frecce mezzo dritte e mezzo abbasciate, va un sciolico. Che curiosi che sono, questo guarda. Ma non ci sarà più Filippo, vabbè, non altro uguale. Uguale, guarda, uguale, meglio. Simpatici, ma loro si sono tutti così, sono troppo simpatici. Poi quando gira la testa fa ridere, ti guarda con uno sguardo allucinante, come se ti capisse, no? Tu cominci, andiamo giù, lui alza le orecchie e gira la testa di sviecco. Già, quando c'è l'arca di Noè ti faccio la foto e te la mando. Quando c'è qualcosa dei cani, la domenica mi pare, il sabato, che lui sta si siede, faccia la televisione e sta con la faccia in alto guardandolo, ogni tanto muove le orecchie, capito? Perché vede i cani. Sì, anche se anche Taylor lo fa quando vede i cani. Sì, lo guardiamo anche lui a canale 5. Dura poco, però lo fanno vedere addestramenti, tutte queste cose qua. Come fare addestrare il cane, eccetera, eccetera. Anche io lo capisco. E io praticamente quando mi con il divano per farmi mettere il viso, lui piglia a tra sopra e si pone il viso da me. Ed è attento sempre, sempre guardando il televisore attento. Dopo si trovi, mi muore un gabinetto di birra e si trovi. Sì, sì, sì, sono quei giochi cucciucci che fanno quei cani piccolini. È poco lui attento, mi dice cosa sta succedendo, cosa stanno facendo a quel cane, capito? Poi puntato mi ha la mamma che è rientrata dopo per tornare a uscire, agitando il robuccia, aspettando a portarlo, però lo porto io dopo. Speriamo che non piove, cioè non tardiamoci, perché è andato pioggia. E vabbè, quindi Marco non c'è, è andato a papà, ma ci vediamo, si è allontanato e si è andato a farci la luce, adesso è rientrato da poco. Riprendi Natalino. Si deve essere messo insieme perché è già tanti giorni che l'ho detto. No, a parte gli scherzi, mi sta preoccupando, non ho sentito. Oh, ieri è entrato, no Natalino? E chi Marco? Ok, non è entrato ieri. È entrato, non sai cosa gli è successo già? No. La cucina ha pigliato fuoco. Cosa? La cucina gli ha preso fuoco. La mamma stava cucinando, ha lasciato scatti di carta, roba così vicino alla cucina, le cose di cartone, vai come togli per cucinare. Tanto è partito la cosa, ha bruciato tutta la cappa, ne ha rifatto tutta la cucina, un casino. E se lo fiaggava, che la madre ogni tanto si dimentica il fornellaccio, se mai qualche giorno combina casino. No, vabbè, ma lì non è che il fornello lì c'era, cioè, a volte compri la carne, ora la togli dalla carta e lasci, anche la moglie che fai di stare sempre molto attenta, perché con le confezioni col colesterolo, quelle sono molto pericolose. Basta che la lasci scalda, si giuri il colesterolo, perché la apriamo, è micidiale, capito? Dovesse successo così lì, ma gli ha disintegrato la mezza cucina. A noi ci è successo perché mia moglie aveva il coso di quando friggeva le patatine oppure la cava impanata, prendeva un piatto, quando li metteva a riscotersi per assorbire l'olio. E che cosa è successo? Ha messo il piatto troppo vicino, lo scottes ha pigliato un fuoco, ma come liberare un lavandino, ti lascia la panna, dovete andare lavandino con un buco e tutto, ha preso un rubetto e ha giusturato, se no pigliava buco la casa. Lui ha secchi d'acqua sopra la cucina, l'ha raccontato ieri. E sono venuti anche i vigili del fuoco, poi ha già tutto a posto, capito? Però gli ho detto, cazzo, vi prende a sonno, una cosa del genere, che siete addormentati, alla fine del fumo ci rimarrete secchi. Bisogna stare molto molto attenti a queste cose. Però non gli ha fatto danno. Tutta la cappa bruciata, completamente la cappa sciolta, perché la fiamma è salita in alto, capito? E quindi lui ha visto la fiammata, ha pigliato un pezzo di leva e te l'ha continuato. Poi ha merito tutta la cucina, ha bruciato un po' i fornelli, capito? Meno male è andata bene, se non riesce a spegnerlo, che si trova una tendina, una cosa lì, sai, i più femmine buoni, i tendini, le cose, le presine, tanto parte il fuoco non lo fermi più. Poi, ci sto dicendo che c'è un lavandino vicino e si era già fatto il lavandino e si era aperto subito l'acqua per spegnere, c'era una fiamma allucinante perché c'era l'olio della carne, in più c'era la carta per assorbire la carne, gli scottes che metteva per assorbire la carne, ha stabilizzato tutto fuoco, grazie. Ed è una fuggita, si è bussati che riata. E io sono dovuto prendere mezzo così la volta di mamma. Sono andato a casa di mamma, c'è la stufa a carosello, deve essere qualche evento contrario, cazzo, ha fatto alzare la fiamma, l'ha fatta uscire dalla cucina, dalla stufa a carosello, cazzo, è passata, cazzo, è arrivato uno. E loro se ne sono scappati, io cazzo, già la padule va dentro, e già l'ho spento, ma cazzo, c'era un amico mio, invece di darmi una mano, cazzo, se ne è fuggito con mamma pure, l'ha pushata pure. No, bisogna stare attenti a queste cose, bisogna stare molto molto attenti, perché è pericoloso, capito? È molto pericoloso, vabbè, vabbè. E anche a successo e ha ancora stufato le sue mie aperitivi, perché se passa più chiarogene se ne verrà la fiamma che la bucherà il babbo, e quindi è un casino. E vabbè. E allora, Tattarì, tutto pace? Ci sai cosa è successo a me in campagna? Chi mi ha voluto imitare? A te la ricordi, zia Iole, già? Certo che me la ricordo. Allora, a parte, chissà. A Sindico Cucca ha lampato la benzina di Dovoco. Quando sono durato, ho già trattato tutti i vaccinetti, compresa la così. È andata, perché la benzina e l'alcol ti mettono appresso, devi stare attento. Anche un mio collega ha la mania di accendere il camino spruzzando l'alcol. Tu qualche giorno ci rimani, mi vedrai che ci rimani. E infatti gli avevo consigliato di comprare le diavoline, io no, quelle che ci mettono proprio per accendere il fuoco. E lui ci ha fatto, se no anche lì rimani a secco, con questo cazzo di corso, di boccetta e l'alcol spruzzando da lontano. L'alcol ti mette appresso, ti mette, hai capito? Ti si incendia la faccia, ti si incendia. E chi non si tratta di chi ci fa incendiare le macchine, li pone la diavolina sotto le ruote, la accendi e si nata. E se no, ti racconti di una beta, dretta, attesa, molto ci vuole. Mi sono andato a accompagnare mio collega in via, vicino a te, in via Porta Maggiore, mi pare si chiama, via Porta Maggiore, lì. Ma però ti posso vedere una cosa. Allora, praticamente c'è un diverbio tra due, uno che abita di fronte all'altro. Si sono già parlati, sono già intervenuti altre volte, ma anche carabinieri, la 113, eccetera. Questo si è stufato, si è comprato la macchina nuova, uno di questi, da 500, nuova, nera, bellissima, nuova. E farà da denuncia a Roma e rompito le palle, non abbiamo più. Ha preso una cosa di benzina, è fasciato lo vedo e si è accuttato dentro, l'ha incendiato la macchina. Dito a chi usa che è, cosa ha fatto? Non è incendiata la macchina, no? Ha avvicinato il cassonetto della Mondezza, gli ha rotto il parabrezza di dietro e l'ha pieno la macchina di Mondezza, Mondezza burida. Sì, ma sono qui i bigli, lo so. Quando io porto un taglio, molte volte mi devo allontanare perché sono sempre un bisticciano, ho bisogno di carabinieri, per pulizia, è sempre un casino, tipo la Peroci. E così, sono sempre un bisticciano in quella zona. Bisogna stare anche attenti perché c'è gente che c'è il cane, sono anche precontenti, sono persone poco affidate. E se ti capita di portare a Taiso, sale appena appena su, via Porta Maggiore, che sono i cassonetti, tu guardi c'è una 500 nera parcheggiata, tutta bruciata, e l'altra gruppa la bretta a fianco, gruppa la bretta è fasciato, tutta piena di Mondezza, detto, ma Mondezza, bro, sei un fianco che non ti puoi avvicinare. E diciamo che non la tratta di... Infatti gliel'ho fatto apposta, hai capito? Anche perché non è una macchina, è una Seat Ibiza, mi pare di sì, vecchio modello, però era in buone condizioni. La fascia di opera vecchia era piena di Mondezza, buchi di Mondezza, ma Mondezza, però, viene poco la zucca, di tutto, chi più ne ha più ne metta, c'è il fruttivendolo, c'è il macellaio, vero comodo, di tutto. Quello sai di cosa tutto buttano, vicino ai cassonetti, tu trovi di tutto, mobili, un televisore di quelli a schermo piatto di mani, cose come si chiamano, graticole, di tutti i bivacciati, non ci vanno all'isola delle ecologiche, hanno buttato tutto a fianco al cassonetto, tutto quanto quello che hanno, mobili, letti, traverse, di tutti i bivacciati. Che schifo, lo so, vabbè, una collega abita lì, non credo abita lì, perché c'è la casa popolare, però lui è appena più in avanti, proprio all'inizio, questi sono al centro, ma lì si va di una beffa, sono un mese a Livorno, ha detto, non è detto, vabbè, a che lì intende riparo, e dice, non lo so, forse uno se ne sia anche cacciatore, bisogna stare attenti, ti sarei dentro dove noi esci, io, mi hanno fatto vedere lui, ma ieri, l'ho accompagnato, l'ho accompagnato, a Luciano. sono qua. Non arrivate ancora con Cedro? No, che è andato dall'amica, ci ma la casa Rubiani. Mi ha giunto a io. A chi ha giunto? Non è più di assa, vuoi andare con la padrona. E poco rompi. Vabbè, piccolo ti vanno bene il concetto a fare quella prova, che è molto interessante quel coso, questa prova qua, perché se effettivamente è baracchino bisogna trovare una soluzione. Che cosa vuoi, mi bacuro due e quello che ho fatto da giù non mi piace, io lo so curvarmi. Cazzo, la giù a fa franco, non fa dire una striscia. E non gliene faccio, ha detto che me lo devo pagare io il tecnico, perché lui la televisione la vede bene, allora la vedo detto, ok. Sì, no, no, su mai vedo, però se non disturbi col presidente, disturbi col magnum, allora è baracchino che c'ha qualche spuria, capito? Mi interessa capire quello, perché la penna non disturba. È attaccata alla tua, attaccata agli altri televisori, non disturba. Sicuramente c'è qualche problema, in più baracchino magari è troppo forte, però se non disturbi con questo, a futibini, tira campa. E il nostro servizio ricciuto, non servizio. Compreso. Ha detto che mi denunziava, vabbè, forse hai visto più voi. Che ci sono di libro da salvare, cosa messa che vengano tutti ai piedi suoi, a voi, nessuno mi dice uno qualche cazzata, però è sempre meglio quieto vivere, no? Capito? Se quello mi va bene usi quello, l'altro o te lo provo in macchina, se la biglia in gomma le vostre macchine, e se no si arrangia, si impicca come ti ha fatto il visto di Gianni. Prima ha fatto tanto a brutto, poi si è impiccato, vero già? Ma non è impiccato tu, no già? No, no, l'ho trovata a scuola dove insegnava, si è messo una busta in testa e si è impiccato nel bagno. Quelli sono tutti i dispiaceri che gli hai dato. Ehi, una volta era giubilata a botte, ma non c'era, sai cosa faceva? Guardavano se stavo modulando in macchina, pure quando rientravo mi puntavano una pila grossa grossa di quelle che prendevano prima, no? A mille candele, non so, si ne puntavano in macchina a vedere, e allora te puntavi di coglione la usa, e lei ha fatto, stronzo, ci stai disturbando il telefono, il televisore. E allora gli ho detto, ti curo, non voglio ripetere le parole che gli ho detto. E poi ho saputo che si è avuto una busta in capo e si è piccato, ma era esaurito questo, mi ha messo la rosa rossa, te lo ricordi? Io ho tutti gli articoli del giornale lì conservati, quindi lì poi mi ha messo i bigliettini sotto i portoni, dove sta le scomposte, il signore di Biamores ha messo il numero e tutto quanto, disturba il telefono. Dove aveva visto Codatex, questo ti ha detto il bar. No, io una volta ti ricordo che l'avevo chiamato, però da quel toccai, che era così, tu, stavo a casa della buona maritore, gli tu, mi c'era comprato una roba nuova, un 9,40 c'aveva, se non ce l'avevo anche io, volevo vedere se c'era una differenza, eccetera, per farmi vedere, 12-10 metri, dopo 10 metri, mi ricordo sempre, 28,450. Ti tengo a te, ma no, forte, proprio 9-10, 9-15 segnale. Questo è Gianni. Questo è Gianni, ha detto, boh, non si è accorto che è fuori banda. E niente, ha detto, no, aspetta, lo chiamo io. Infatti ti avevo chiamato, e ti ha detto, no, io sono il 27. Il 27, senti, tengo i 10 metri. Ed era quel toccai 5,24, ti ricordo, che l'avevi fatto sparire subito, immediatamente. Ma poi le antenne si vedevano, e lì, cazzo, contore, eravamo proprio a un tiro di schioppo, le antenne erano di fronte una all'altra. È anche possibile quello, dai. Erano proprio attaccati le antenne. No, ma il fatto che il toccai esca molto forte, probabilmente è stato anche quello che ha dato il disturbo, capito? E con tutto che avevo il microfono suo, capito? C'avevo il microfono del toccai, ma non avevo l'originale, e ce l'ho tuttora l'originale del toccai. Oh, ma cosa c'ha l'attacco quello a spinetta? A quale punto è? via, non me lo ricordo adesso, dovrebbe andare a guardare. Sì, a Spinetta c'è, di quelle che quando tiri troppo te ne esci fuori. No, guarda già quante punte è, che ti faccio sapere quante punte è quello di Giuseppe. Perché quello di Giuseppe esce troppo basso il microfono, invece quello è un ben amplificato. Capito? È un ben amplificato. Ma quale? Perché Giuseppe? Che cosa sta usando? Tocai. No, Giuseppe c'ha la Fayette base, c'ha un bel base vintage. Con l'attacco così, tipo quello del Tokai, capito? C'ha vabbè anche lineare, per uscire un lineare, l'ho comprato. Quando per parlare con noi, perché il Torghero non ha bisogno, però per parlare con noi, siccome la radio da 5-6 watt, allora c'ha un lineare che già compra. 300, cioè, devo regolare io e lo usa solo così, alla potenza che devo messo io. Che è? Fammi sapere quante punte aspettiamo a vedere. Sì, a me non so se avevo cambiato lo spinotto, questo non me lo ricordo, se avevo provato in altri apparecchi, boh, non me lo ricordo. Comunque quello lì è un bel buono microfono. Infatti era la cosa munito nel coso, nel mitra, quello lì. Perché io c'ho un Midland che è ferro omologato. E il ferro non lo sto più usando, non lo attacco più perché c'ho il microfono da attaccare. E c'ho anche quello originale oltretutto, il microfono originale, in più c'ho anche quell'amplificato, il Proxel, da mettere lì. Adesso quando mi decido, invece lo facciamo il collegamento e via. Ma spesso non per... Ia, ma stavi riprendi. Ia, è venuto qui. Ma... Speriamo, cazzo di... Ma oggi non c'è venuto nessuno. Capifacci che non distruggo con questo. Però c'è l'antenna messa male. Si rintravo. Tranquillo che c'è l'antenna messa male. Ma di quelli ignoranti te l'ha detto brutalmente o te l'ha detto controlli, niente, no? Di quelli proprio ignoranti che si cazzano nella prima. Sì, non vi giuro, l'ha pigliata la Mara e allora io parito tranquillo, no? Tanto c'è la concessione, c'ho tutto. Io sono in regola. Veda lui cosa vuol fare. Cazzo vuoi pagarli con denni con io. E io ti pago con denni. Vai, ammazzati. Ma dai, quelli lì si impiccano. Sì, sì. Finiscono tutti così quelli che non fanno le basse. Eh sì. Quello si mette la corda al collo, si butta al ponte il rosello che è vicino. Cazzo, quello che dice non può fare pagare a me aveva chiesto, aveva messo sotto i portoni chiedendo, voleva fare una specie di comunità per denunciarmi per farmi togliere l'antenna. Via. Cazzo. E da poi si viene da me a controllare, questa è la suia. Perché io il primo che devo disturbare sono il mio, no? C'è un amplificatore pure per l'antenna. Devo rientrare di brutto. Un cazzo gli entravo al mio. Vuol dire che quell'antenna è senza massa. E tutta la montagna si viene a con gli amplificatori. Oppure c'ha il miscelatore che. Per dire, da noi quando è successo che io disturbavo tutto il palazzo, gli hanno cambiato l'antenna perché hanno chiamato il tecnico, mi ha controllato il watt e gli ho fatto vedere che stavo uscendo con 5 watt. Ha detto no, non è possibile che con 5 watt disturbi. E salito su, ha controllato l'antenna come la stava toccando, deve fare ad un pizzo. Mi dice per forza, lei non ha nessuna colpa, c'è l'antenna che fradicia, è per quello che prende, c'è tutta quanta la scatola che è aperta. Del miscelatore, tutta rugginosa, lento, vuole cambiare l'antenna. Come ha cambiato l'antenna nessuno più si lamentava. Abbiamo fatto le prove con tutti i numeri e nessuno vedeva male. Ma per forza è l'antenna. Allora, c'era Franco California, te lo ricordi? Già me lo ricordo a Franco. Quello disturbava due barazzi oltre il suo. Cazzo, però c'era l'antenna. Senza massa, l'amplificatore in mezzo all'acqua, in terra. E cosa pretendeva? A giubilare, a giubilare, addirittura una l'ha dovuta sostituire l'antenna perché una era proprio irrecuperabile e gliel'ho tolta. Gli ho messo gli spezzoni nuovi, il cavo nuovo fino all'amplificatore, l'amplificatore gliel'ho attaccato a una di quelle traverse in legno, gliel'ho attaccato per non lasciarlo in terra. Curo Greenwood, a manetta, un cazzo, manco una fiscia di guardia. Perché rispetto al televisore è poco, come se arrugginiscono le antenne, fila tutti i canti di spughe. E anche il campo, molte volte anche il campo. Infatti lui ha cambiato sia il campo che l'antenna. Gli ha messo la fraccarro, quella appunto per il digitale terrestre, quando l'ha cambiata. Si è avviato un benzina, 150 euro mi pare, per cambiarla. Però poi non ha avuto più problemi. Addirittura gli da oggi mi ha detto che l'aveva fasciata io apposta, ma che l'aveva sfasciata per far vedere che non funzionava per quello. Ma dimmi tu, a caputo, l'aveva rotta tu per far vedere che non funzionava, che era quella che non, per quello che non funzionava, che si vedeva male. Io non ho rotto proprio nulla, il tecnico, guarda, sai, chiede al tecnico cosa ti dice. Boh, a me mi pare strano, prima si vediamo e a mano si vede più. Se ti ricordi di una mi è rimasta in mano l'antenna, l'ho dovuta sostituire, di candela pratica. Ho preso, gli ho lasciato un'antenna, gli ho tolto lo spezzone a quell'antenna che ho recuperato, che si poteva andare, e gli ho fatto gli spezzoni nuovi. E poi gli ho cambiato il cavo che va dalle antenne all'amplificatore. Lui non disturbava più. A chi l'antenna va via, la massa, Duzzo, va tu come si sgocca, chissà chi cazzo gliel'ha fatta, quello lì l'antenna è poi, e di quelle vecchie con l'amplificatore, se la segno non fa più massa, no, che ruginosa, della razza pratica, è logico cazzo che l'entrica, le così. Mia mamma, la faccia c'è un palla, è andata la camisuglia. Però è lontano da me, non è nel mio palazzo, è in fondo al vicolo, capito? È in basso, io non so come faccio a disturbarlo addirittura, cosa cazzo, è proprio perché c'ha l'antenna che mi è sa male. Ma stavi qui che un mediente è fissata, come ti devi vedere, che piatti l'antenna al minimo di subito, dicono che molta gente è fissata, A me addirittura qualcuno mi cambiava il canale del televisore, secondo me l'attore come modulava, tu mi cambiava il canale da solo. Scusami. Ah, e non lo sai l'ultima, a quello di fronte, come ha visto l'antenna, dice che gli disturbava la DSL, il figlio non poteva giocare. Dimmi tu, insomma, non te la metti la cosa che lì a fianco al caffè. Tutti i lati di un lugasso con la macchinetta della BP, a chi si, oppure di cui si attisca lì, perché se funziona male la DSL non è colpa mia, né a me, lo vedi, mi hanno fatto tutto nuovo la TIM, perché neanche loro ci, ne stavano togliendo piedi, stavo per rinunciare io alla DSL. Anch'io ho messo questo fatto e l'ho fatto male, cazzo, c'avevo Telecom, cazzo, ho messo fatto e adesso ogni tanto la rete non è stabile, capito? Non sta fissa, non sta bene fissa come deve stare, dai. Un casino, con questo cazzo di coso, di computer. Io non riesco più a entrare su Facebook, mi sono dimenticato la password, non riesco più a entrare dal computer. Non me l'ho scritta, ragazzi, mi è sfuggita di capo, non riesco più a ricordare, ma siccome ne ho avuto un bel di provate tutte quelle che ho avuto, però non deve essere proprio quella, non me la ricordo. Ma c'è il programma per scoprire la password di cosa, di Facebook? Credo sì. Ma è un programma a parte o c'è nella parte del computer? No, è un programma a parte. Dovrei avercelo io. E ti scopre la password di cosa? Di Facebook. Fatto apposta. Cavolo. DSL. Allora sa a me perché non funzionava la DSL, io glielo dicevo, perché a me mi avevano fatto l'impianto, la verità, nuovo, tutto qua. solo che c'erano i capi a bagno, c'era una cosa che mi ha aggiunto, no, ed era crepata la giunzione, un giunto era crepato e c'erano i capi a bagno. Ah, questo qui se ne è accorto, questo tecnico alla fine, ma alla fine proprio, se ne è abusato, ha chiamato i giuntisti, mi hanno fatto il giunto nuovo e la scatoletta nuova, mi hanno messo che era tra fravicia, cazzo e ossidata. Come ti mai erano se ne andava più la DSL? E io ho la fibra che va a cazzo a 100, più di 100 va adesso. Pronto. Allora. È molto paghi una carica. Ma 39,90 mi pare, perché c'ho anche il telefono io, capito? Anche io pago col Santorini, non è che con fastware. Però c'è qualche giunto, se non è stabile, c'è qualcosa che non va, perché a me mi avevano messo tutto l'impianto nuovo e non andava Roma a Tessi, se non andava proprio la DSL da me. Infatti poi mi ho fatto mettere la fibra e la fibra andava a Mari. Cazzo, tutto quello che ho passato io per la linea non lo puoi immaginare. Perché mai sono cantate se non riesci a capire che cosa è, tipo decidi capo. È come l'apparato, no? Quando c'è qualche cosa, esci di capo, quando mi fa una cazzata. Vabbè, e comunque. Cioè va bene, dai, adesso funziona. Io sto usando il telefonino perché col computer non riesco più a entrare su Facebook, è un casino. Sto usando il telefonino infatti per entrare. Ma anche quel telefonino, l'S3, vuole, non è obsoleto, vuole buttare la molletta perché ti dà una videata che non li chiedi, per dire ti telefonano e vai a chiudere la telefonata, ti dà un'altra videata e non riesci a trovare il tasto per chiudere. Cazzo, là devi ritornare al telefonino e poi premere la tastiera e tutto quanto, devi fare tutto il passaggio di nuovo, un casino. E si ammalano, a un certo punto l'ho anche resettato, l'ho resettato, è andato bene per un periodo, poi torna da casa. Io meno male che ho lo smartphone, però internet non ne ho su quello smartphone, perché ho quel numero vecchio, no? Poi ne ho un altro che c'ha anche internet, però non mangio più a pagare, tanto non voglio più un cazzo, ma il computer e boh, una puzza un cavo. No, io quello che ho c'è anche internet, però si impara ogni tanto, cazzo, vanno a far vedere la fotografia di Italia, questo qua che è quello che è venuto col bulldog inglese, mi ha detto fammelo vedere il tuo cane, l'ho fatto vedere, stavo facendo vedere, cazzo si è impallato, si è bloccato, non andava né avanti né indietro, boh, ha detto mi pare che ti trovo se mi sono la salita e si bloccano, vedi, si bloccano. Sono telefoni buoni all'inizio, poi tanto che l'avevo pagato un bel soldi lì col telefono, io l'ho comprato proprio quando erano usciti. Magari c'è la memoria troppo piena e allora è per quello che si impalla. La memoria l'avevo messa anche più grossa, l'avevo comprato uguale, io e Liliana, tutti e due uguali ce l'abbiamo, ma tutti e due sta facendo gli stessi difetti. Ma non è che non dipende tanto dalla memoria esterna, da quella interna dipende che si impalla, sarà piena ghissa. A più cazzo andrò, ti cazzi sempre a giorno, anche sempre a giorno. Alla fine cazzo non ti cazzi più nulla, siccome quelli, quel robalino la puoi mettere nella scheda esterna, ti viene adulto e si impalla. Niente, ma avanti. Avanti, chi è? Ho detto, niente, ma avanti. Ciao Giulio. Niente parolacce. Sono rientrato. Ciao Giulio Collaro. Ciao qua. No, stavo ascoltando. C'è gente qua. Nata lì. Sì, ciao Giù. Mi hanno incasinato. Sì, vabbè. Non fa niente. Se sei incavolato non è il caso. Vabbè, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao Giù, ciao, buonasera, ben sentito. Il mio qua, stiamo a Filippo, poi al telefono non con dicendo già del come si chiama, di quello che capita di Alto Maggiore. Capito? E stamattina Tito Vito ne hanno fatto fuori uno. Era 6 mesi in malattia già, 6 mesi in malattia. Gli avevo detto, perché mi chiedevano, ma è claro, rientra, rientra, mica stai superando il limite, rientra, rientra, poi se non stai bene rimani in malattia, però riparti nuovamente con il budget praticamente che ti spetta. Non è rientrato al 7° mese, hanno fatto passare un altro mese, 7 mesi, stamattina è arrivata la lettera di licenziamento. E non avevi parlato, sì, di questo qua, che è stato sempre in malattia. Avevo detto che aveva qualche cosa di... aveva avuto un incidente, mi pare. No, allora, un inizio di Alzheimer, un inizio, ok, però era in cura, stava bene, bello sempre pimpante perché lo vedono in giro, me lo riferiscono. Capito? E a me ci siamo sentiti e gli ho detto rientra, rientra, guarda che le cose poi si mettono male, non ti può aiutare più nessuno, siccome uno che ha la testa molto dura, c'ha la testa nostra, non è che invece, capito? Adesso voglio vedere fino a 65 anni che cosa fa, capito? Ora voglio vedere cosa fa, no, 58, no, 59. No, a me la verità mi hanno avvisato. A me, quando io ero malattia, mi hanno avvisato, se non rientri devi prenderti almeno 3 mesi senza essere pagato, di aspettativa, se proprio non ce la fai. E se no devi rientrare. Devi rientrare perché se no è un casino. È un casino. E sono dovuto rientrare qua. E sono dovuto rientrare con la piaga nel piede. Già lo sa. Già, ma tu già una cosa che diventa un pochino più pesante, perché non puoi camminare, ti fa male il piede. Lui è vegeto, va rugato un po' a Bombuglione, perché l'hanno riscontrato nell'ultima, l'azienda li ha riscontrato, sotto segnalazione, diciamo, vabbè, anche via, perché non era attento, sbagliava tantissime cose, numeri, fasulli, eccetera, eccetera. Ma secondo me è preferibile che lo mandiate a fare una visita di controllo. Così è stato fatto. L'hanno mandato e per il momento non era idoneo al lavoro. E quindi va bene, malattia, perfetto. Fa la cura, tutto. Però l'avevo detto, non solo io, ma anche gli altri, quelli che sono anche più in alto di me. E avevo detto, guarda che al 7° mese, come scade, il 7° mese malattia devi rientrare. Che stai bene o stai male? Prenderai delle mansioni diverse, ok, però devi rientrare, se no, come hai detto tu, ti devi mettere in aspettativa, senza retribuzione, senza essere retribuito. Non ho fatto nulla, nulla. Ah, io sto male tu a casa, ah, io sto male tu a casa. Vabbè, stai a casa allora, stai a casa, mi. Adesso stai a casa per sempre. Un po' di lavoro d'oro. 30 anni via, 20 anni via, 20 anni, 25. Tirare troppo la cinghia tante volte sbagliato, ma io già sono rientrato che non stavo bene e tuttora diciamo che non è come prima, però sempre il taglio c'è, rimane sempre luce l'accento. Sono sì, io sono sempre con una greppa di gas per fare spessore e basta, tutto lì. E sto continuando a lavorare anche col piede aperto. Ma diciamo che confronto a prima ha migliorato di brutto. Ogni tanto mi passo con la macchinetta per i calli, per appiattirlo perché si forma il callo. E cosa devo fare? Bisogna convivere, cioè magari quando vado al mare l'estate mi guarisce, come ha detto con la signora del porto dottore, va che mi vigliono ogni cosa che manda al mare e mi guarisce subito, leva di mare, di padre di sì, ma ti ripeto, la tua situazione potrebbe essere anche accettabile un fatto del genere, capito? Perché non puoi camminare, sforzi il piede, eccetera. Ma lui no, lui mentalmente era un po' fuori, capito? Per il resto idoneo al 100%, quindi io gliel'avevo detto, perché non è la mia squadra, capito? Anche una bravissima persona, per carità. Però è successo questo, ma io gliel'avevo detto, rientra, rientra, passerà, Fulvio Carta. Ma comunque anche se rientra, Claudio, non è come dici tu, perché se hanno solare non è più come prima che tu rientravi, perché non ho fatto così, io sono stato 3 mesi, poi sono rientrato e ne ho fatto altri 3 mesi. Non va più così. Adesso hanno solare, per dire tu vai 6 mesi, finisci la malattia, cosa ti posso dire, a gennaio, fino a gennaio del prossimo anno non puoi andare in malattia. Ma infatti io glielo avevo detto, tu rientra se non è sereno, tranquillo e sereno, vuol dire se peggiori si vedrà, però intanto devi rientrare, se no ti dico di rimuovere, a me, io sto male, non fanno niente. Vabbè, io manco lo sapevo, perché io stamattina sono arrivato tardi a fare le visite, ho fatto la mia visita e subito sono ripartito perché ci avevo da fare, quindi sono andato nuovamente a Sorso, eccetera, eccetera. Infatti mi ha chiamato questo collega che mi ha detto questa cosa, mi dispiace, perché ripeto, è sempre brutto quando prendi un collega di lavoro, però se non fai funzionare un gatto l'azienda non c'entra niente, non è che tu puoi avere colpa l'azienda, se ti viene sempre incontro per qualsiasi cosa, a tutti. Però se tu non rispetti le leggi, l'azienda si deve adeguare alle leggi, perché altrimenti poi i contributi di malattia si rimane all'azienda invece di pagare la l'INPS, capito? Perciò, vabbè, chiuso il discorso, tu vedi su, si arrangia, ecco perché l'ho il telefono. Avanti Natali, e te bala. Siamo qui e che il cane stava abbaiando, perché ogni minima cosa che sente cazzo attacca a abbaiare questo cane, mamma mia. E mi devo spostare. Qua c'è il bimbo, quindi andiamo in mail. Adesso devo uscire, che ore sono? Le 8 ma 25 sono già. Mi sa che mi preparo un po' perché il cielo che si sta diventando sempre più grigio, anziché il cielo blu diventare il cielo grigio. Beh, io momentaneamente vi saluto e mi allontano. Ok Natali, lascia tutto acceso, Gianni, se ci sei, ci sentiamo dopo, ok? Io lascio acceso e vado a portare il cane, a dopo. Anche io sto chiudendo, ciao Natalino, ciao Claudio, vado anche io. Poi mangio, dai, ci sentiamo. Ciao. Dai, ci sentiamo dopo allora, che vado a portare il cane anch'io, ciao. Capito? Volevo fare anche due prove, vabbè, 5-5, però volevo vedere anche un pochettino. Se io lo metto così, cosa succede? E cosa stai toccando? Fammi capire. Ho toccato leggermente il Michele Erwin, te l'ho messo a 6. Michele Erwin è Michele Erwin. Quello del compressore però lasciava 5, se no spinge ancora di più. Tu, questo lo potevo anche... Guarda, l'ho messo a 4 quello, l'ho abbassato leggermente. Ecco, non sta fischiando più. Mettilo a 3 a vedere. Questo passaggio così a 3, un po'. Ancora più bella la modulazione. Sì, allora abbiamo sbagliato. Il compressore lasciava a 3 e il Michele Erwin lo puoi lasciare anche a 5-6, va bene. Volevo fare proprio una prova con la mia modulazione. Allora, guarda. Così l'ho portato il Michele Erwin a 6,5. Così ti smorza però, ti toglie leggermente gli acuti. Allora, guarda, così l'ho riportato a 6. Guarda, l'ho abbassato ancora leggermente, lì un po'. Il compressore andava bene a 3. Il compressore a 3 stai spingendo di brutto. Il Michele lo puoi mettere anche a 6, però il compressore abbassava a 3. Sì, questo passaggio così a 3. Cavolo, mi ha detto l'ho acceso. Questo passaggio a 3. La ventola la senti? Sì, la metto a parte. Quello è importante, abbiamo fatto un bel lavoro. Ok, quello è importante. Perché c'era la resistenza dell'eccitazione molto in un bruciata, quindi una volta che ho cambiato quella è chiaro che era in parte, poi tutta pulita. Comosa, la senti? No, claro, ci devi buttare proprio l'orecchio dentro, se no non intendi proprio. Sì, come ho fatto io. Perché aperta il libro si sentiva bene. Quando l'ho chiusa gli ho detto, ma per forza andare più invece gli posso fare, c'è la funzione come silenziosa, è vero, tutta la parte pulita con la piedina. Sì, Massimiliano, per me la posizione ideale dell'85 è quella, il compressore inserito a 3, il processore della radio inserita e il Michele Erwin a 5-6, così è perfetta. Vogliamo provare questi toni normali a metterlo, a vedere cosa cambia. Mamma mia, che brutti che sono, prova. Guarda, così sono con quei toni normali, vedo un po'. Tutta impastata, praticamente ti toglie gli acuti, infatti se tu leggi c'è scritto alto e basso, tu lo devi tenere in alto, acuti. Va bene, però volevo fare un'altra prova, tu questo me l'hai dato che così, toglie, così, con questo passaggio così, vedo un po'. Io ho trovato che era 5 a 5, giusto? Sì, adesso ho messo compressore a 5 e Michele Erwin a 6. Troppo alto, troppo alto. Troppo alto, Massimiliano, sia la soglia. A 3 lo devi mettere il compressore. Se tieni il compressore inserito nel microfono devi mettere a 3, perché sta spingendo un bel. Allora, guarda questo passaggio che l'ho passato a 3, com'è? Così è perfetto, perfetto. Tonalità medio-bassa, i medio-alti sono belli corposi, lasciala così. Attenzione che il Michigan ce l'ho al massimo, eh? Non influisce, non sta fischiando, non sta innescando. Perché lì chi comanda quando hai il compressore del microfono dell'85 inserito è lo driver del parametrico, quello comanda tutto. Se invece tu disinserisci il compressore, quindi automaticamente disinserisci il parametrico dell'85, ti comanda sia il processore della radio che il Michele Erwin dell'85. Ok, in diretta così ti voglio fare un altro passaggio. Cosa ha cambiato in questo passaggio così? Sento, sì, adesso ti faccio entrare anche Giuseppe, sì, sento Massimiliano, però leggermente un innesco, piccolo, piccolo ma c'è, perché stai superando la soglia tra compressore e processore, capito? Tutto lì, è molto, spingio bene. Avanti Antonio Giuseppe, l'importante non ti distruggo la cantina, non penso a Antonio Giuseppe, quando io non ti distruggo la cantina, su, allora andare, la cantina la busso, buono di sui bar. Ciao, buonasera, ben sentito, compagnia di Massimiliano, io lo abbascio, se abbascio non esce, quindi bisogna tenere sempre alta la bandiera della torre. Avanti Massimiliano. Sì, buonasera, dai, Massimiliano, accorto. Sì, leggermente abbasso il classe, non so, magari, involontariamente ho toccato qualcosa, ha proprio un'idea. Infatti hai ragione, io avevo il Mickey Gain a due, adesso l'ho messo a uno come deve andare, avevi ragione, era troppo alto. Ok, avete fatto bene a dirlo, e forse come le passo il pennellino, o come le passo il dito così a pugli e pomelli, era troppo alto. Ia. E mi ha detto, Giuseppe, se ne vai a sciosciù, te ne mi fumate, domani sono in Kiwi. Ia, parco lei, non ti preoccupare. E io passo sempre vicino ai Kiwi, ma sono con quella macchina là, te lo sai, non mi posso fermare. E c'ho il controllo satellitare. Se capita che passo con la macchina mia, gli atterrò con la Ianna. Così assaggiamo rovino. Ciao, un abbraccio, salutami a tutti a casa. E grazie per essere entrato a salutare. Vai Massimiliano. Sì, ciao Antonio, vai. Buona serata, buona continuazione, ci sentiamo alle prossime. Forza Brioscia, dice Antonio Giuseppe. Va bene. Sì Massimiliano, sei perfetto così, stai spingendo. Io va bene così, a uno ce l'ho il Mickey Gain del 440, va bene? Sì, claro, è troppo alto, sono troppo vecchio per di lungo. Allora, io adesso sto parlando più o meno a quarantina di centimetri. Se mi avvicino così, cambia qualcosa? Molto più bella, 40 sono troppi Massimiliano, e già vieni spesso qua. La mia distanza dall'MC60 è intorno ai 20 centimetri, capito? 20, 30, 25. La mia linea è quella, ma se ti allontani troppo non va bene. Avvicinandoti una ventina di centimetri, parlando una ventina di centimetri, anche 30, è molto più corposa la modulazione. Allora guarda qua, così sono più o meno una ventina di centimetri. Ha cambiato qualcosa? Dal giorno alla notte, molto più corposa, molto più bella. Vedi, poi di 85 riuscire. Bellissima modulazione, vabbè. Anche quello è stato tutto un po' revisionato e pulito, che fa dire chi fu bruisce, ma comunque il microfono sano è buono, bella modulazione così. È il capo brioche allora, come dice Antonio, va bene. Ok, dai, così lo posso lasciare allora, va, una ventina di centimetri, una ventina di watt importante, e poi il resto fa tutto lui, va. 13,920 abbondante con picchi a 25 pieni. Alla grande Massimiliano, stai andando. Cosa ti stavo dicendo? Quella cuffietta l'ho recuperata da dalle cuffie. La cuffietta l'avevo preso io quando ho restituito un microfono tipo questo, non gli ho dato la cuffietta, perché questa cuffietta l'avevo presa dai cinesi, capito? Quel microfonino che ti metti davanti alla bocca con le cuffiette incorporato, hai pagato 2 euro, è molto carina, capito? Sì, ci sono anche leggermente più lunghe, appena più cicciottelle e con lo stesso diametro le ho viste, capito? Infatti se lo stavo per dire, non mi ricordo, però ve l'ho vista, se l'ho vista dai cinesi o in casa il microfono del supermercato. Infatti chi si è commessa la prossima volta ghiando, quanti giri mi dico la cuffietta? No, ma a me io l'ho visto, come ti dicevo tu, con la cuffietta più lunga e rimane fina così come questa. Ma a me non mi piace, è più carino così, piccola deve tappare giusto il pezzettino anteriore, capito? È più carino da vedere. È così in originale, io l'ho comprato nuovo l'MC85, è così in originale, poi hai visto come te l'ha diventata? Sì, come te l'ha diventata? E cazzo di sabocco, cazzo di no? Vabbè, però quello è materiale di consumo, capito? Io ce l'ho le cuffie grandi per l'MC60, per l'SM20, per l'MD98, quello della IAS, però non le metto, mi piace più vederli bene i microfoni, anche io ci muovo da lontano, quindi non lo sputo il microfono, capito? Non so quelli che si ciccami. No, vabbè, che tu ce lo mangiamo però, vogliamo stare. Allora, claro, così mi sono avvicinato un altro pelino, vedi un po'. Bella corposa, Massimiliano, se non lo dici sembra un 60 pieno, bella corposa. Va bene, tutto in vendita, 450 euro, chi è interessato, ti ascolto. E se ho convinto che tu non esci manco lì da Macciaguetta per andare a travagliare. pulita dentro. Io ti ho mandato rivolto. Voleva fare un po' di manutenzione. Io continuo a dire, lo ribadisco, non finirò mai di dirlo, non mettete mai queste radio in cucina dove c'è condensa, perché sembra così, però si rovinano. Queste radio hanno bisogno di un posto dove sia asciutto, dove ci sia condensa, sia arieggiata la radio, capito, in cucina non va bene, perché con l'andare del tempo la ventola stessa si attira, evapori acqui, si deposita sopra i circuiti stampati, diventa una pasta collosa e ti distrugge la radio. Capo Brioche positivo, ascolta a me invece, facciamo un passaggio in USB, che la voglio provare in banda. USB? Aspetta, però che io qua devo uscire dalle memorie, se no mi incasineggio. Aspetta, allora USB sempre su questo canale, Massimiliano. È sempre qua, là. Ma che io devo uscire, giusto? Per spostare il collo? No, tu no, Massimiliano. Tu no, aspetta, io non mi ricordo, porca miseria, mi esce lì. Sì, eccolo qua. Allora, perché se no... Sì, già è questo, 27.075. Eia, dai, provo a vedere, voglio fare un passaggio, voglio vedere la messa. Se mi dici se è giusta, allineata e tutto, Sei rottura di palle però, È molto più veloce il tuo, capito? Perché tu dove c'hai LCB, USB, CW, MFM, TG, capito? E ti dà subito il cambio banda. Io devo uscire dalle memorie e cambiare il selettore. Sì, vabbè, claro, tu devi uscire anche dalle memorie perché magari ti dovevi anche spostare per vedere se la radio era centrata e tutto, capito? Sembra che va bene così, no? No, la grande, è perfetta, Massimilia, perfetta. Bisogna fare qualche ritocchino ancora nella radio, perché continuo a sentire sempre quell'innesco leggero, capito? Dimmi cosa devo toccare, aspetta, allora riabbasso il micchilevo, 5.5. Eccolo qua, così non c'è più nulla, giusto? No, lo sento sempre, Massimiliano. Micchilevo 5.5, mettilo a 5 il coso del compressore, a quanto ce l'hai? Quello l'ho lasciato a 3.5, come mi hai detto tu. Vedi un po' se sente ancora qualcosa. Guarda che te ne accorgi anche tu, Se fai stare zitti a loro un secondo, te ne accorgi anche tu, perché vedi lo smitter che si muove. Prova. Sì, c'ho la televisione dentro, quello di accesa, e loro stanno parlando. Tu dimmi com'è, tanto la modulazione la senti, dimmi com'è così. Allora, compressore 3.5, micchilevo 4.5. No, il compressore mettilo a 3, non 3.5, a 3, perché basta. Il parametrico purtroppo è un sistema molto molto delicato, basta anche una puntina che lui sta già mandando il compressore in funzione. Mettilo a 3 pieno, 3 tacche, proprio alla terza tacca ti devi fermare. Allora, così è 3 pieno e 4.5 di Mickey Leve, vedi un po', Mickey Game a manetta, Ecco, allora è Mickey Game. Prova leggermente, ma leggermente, vedi che lo slider del Mickey Game è tutto a manetta, leggermente toccalo, proprio un pelino, non sotto la C, niente, un pelino, mandalo appena appena indietro. Guarda, vedere, salto così, vedi un po'. Oh, lo vedi che pesiamo? Perché spingi un bel e ti fa rientro. E poi lì l'85 tu ce l'hai a fianco sicuramente alla radio o di fronte alla radio? Alla laterale la radio ce l'ho, però col microfono un po' girato verso di me. Se tu quel microfono lo togli dal lato e lo metti davanti non fa più niente. No, non faccio lungo, ma di cui mai porta luci. Se io giro leggermente invece il microfono da questa parte, cosa cambia? Che non lo fa più. Sono tutti esperimenti che ho già fatto, Massimiliano, c'è da fare. Io perché ho fatto progettare da Giulio il banco dove posso mettere tutti i microfoni davanti? Perché davanti non riesce a fare rientro. Se tu la cassa gliela metti di fianco ti fa rientro, la cassa del microfono, la base del microfono lavora al fianco della radio, avrà hai sempre quel problema. Il microfono è da tavolo sempre davanti alla radio, mai di fianco. Ascolta, e se invece il microfono lo lascio in questa maniera, cosa succede? Dimmi un pochettino, Bellissima, se tu stacchi il compressore, ok, lasci il Mic 11 a 5, il compressore lo lasci a 3, quando ti serve lo puoi usare. E il Mic Gain e il mic della radio col processore inserito. La radio è bellissima, ma similare. Non è che cambia molto. Quando si dice il compressore è più acuti, capito? Leggermente più acuti, però è bellissima lo stesso. Oh, Ghiscio, ti travaglia la manetta, cazzo, a me non la usai come ti piace la radio. Allora, questa è una prova che ho fatto io. Guarda, in questo passaggio, poi ti dico cosa ho fatto. Se ti piace la radio, dimmi, se ti piace la radio in questa posizione. Per me è bella lo stesso, bellissima, bella spinta. E cos'hai fatto? Ho portato il Mic 11, l'ho portato a 5,5 e a 3 pieno il, come cavolo si chiama, il compressore. Però ho girato appena appena il microfonino verso di me e l'ho abbassato leggermente però. No, allora facciamo un'altra prova. Metti il Mic 11, metti com'era tutto perfetto, allineati il microfono eccetera. Ok, il Mic 11, lasciamo il compressore a 3, il Mic 11 portalo a 4 del microfono, portalo a 4 e metti a manetta il mic della radio, prova. Guarda, va bene, questo è il passaggio con le regolazioni che mi hai fatto fare, vedi un po'. Certo, ma si vede, è uno splendore, il registreggio è molto meglio, perché non si sente quell'innesco e la radio non ha cambiato assolutamente niente, perché sta continuando a spingere il compressore e il processore, capito? Compreso anche il mic della versione 80. Va bene così, quindi 4 Mic 11, 85, 3 compressore e a manetta il Mic Gain della radio. Va bene allora, la lascio in questa maniera qua, se va bene. Se va bene, guarda, io ti posso anche registrare. Aspetta che esco da qui, Massimiliano, eccoti qua. Allora, parla che io ti registro. La parola ce l'ho, dai. Dimmi quando sei pronto, io voglio ascoltare. Parla, l'avevo già mandata. Parla, parla. Allora, 1, 2, 3, prova radio. Allora, qua compressore inserito. 3, pieno, pieno. 4 e mezzo, Mic 11. Mic Gain della radio a manetta, processore inserito, 1, 2, 3, prova radio, vedo un po' che avevo lo ascolti, là. Ok, ho mandato. Guarda, a vedere, se secondo te è una radio che non va bene. Io ti do 10, per la mia esperienza da Clivudiano, perché io a Sassari non ce l'è che mi battono. Io sono Clivudiano al 1985, stesso microfono e le radio le ho provate tutte e quattro, 4,40, 4,30, 6,80 e 140, e sono le migliori in assoluto, quindi non ce n'è per nessuno. Signor radio, va bene, va bene, è una bella forte, però non è compresa, è bella, una bella modulazione, va. Va bene, Claudio, no, sono contento che ancora quel problemino è tutto a posto, sembra che sia tutto a posto, poi vedo un pochettino che spazio un po' dove sai, e nel frattempo che loro stanno cucinando, va? Ah, tanto mi aveva passato la televisione, sai, la televisione non si comprende più nulla, ero che gli alugiai dove sono io, quindi con questo passaggio ti saluto. Forti abbracci, saluto in casa, Claudio, voglio farmi due passaggi così di bando a vedere se fa quel problemino, ok? Va bene, falla andare, fai scattare il relè, fai commutare il relè, così la radio fa tutta praticamente quello che deve fare, capito? I competitori devono lavorare, perché avere una di queste radio e tenerla solo in AM può essere sempre pericoloso. Ok, quindi è meglio sempre intanto scambiare, banda, andare, tornare, destra e sinistra, è sempre meglio farla andare. Va bene, per me sei perfetto. Sappi quello che ti ho detto, nel caso dovesse fare quella cosa là, tocca dietro il PL, che voglio capire se c'è qualche falso contatto anche lì, che vediamo un'operata subito, immediatamente, su già quello che devo fare. dovesse fare. Se non lo fai, meglio comunque. Ok, per il resto è tutto a posto. Ti abbraccio, ci sentiamo, buona cena. Ciao Daniele, tanto sta ascoltando, lo abbraccio a Gaia e ci aggiorniamo. Ok, anche io vado a papai, ciao. Ciao Claudio. Vabbè, ti hanno salutato loro qua, che tanto sono all'ascolto, comunque, secondo me, Claudio, detto sinceramente, quando avevamo 5 minuti, mi pare il tribunino e lo fermo direttamente, su un problemino, vedi tu, così, fatta fatta, e la cosa è bella, capito, mi hai? Quando ci abbiamo 10 minuti, mi sa che non lo facciamo, e così siamo a posto. Proprio voi, ma ci vediamo, lo sai che il tempo, io per te, lo tolgo sempre. Ciao Dani, ogni volta che va alla radio, dice Maria, più forte è 10 che 2. Sì, lo facciamo, tanto lì c'è da aprire nuovamente al libro, poi il coperchietto della parte lì, dell'ingresso antenna, e vedere se la saldatura è fatta bene o è fatta male del connettore dell'ingresso antenna, capito? E poi si pulisce anche tutta quella parte lì, eccetera, eccetera. Va bene, perché per il resto è tutto ok, però lì non ci sono arrivato perché il difetto non li ho visto, quindi. Però se te lo fa, controlla se arriva da lì la operiamo di nuovo. Va bene, ciao di nuovo, buona serata, buonanotte, buon tutto, ci sentiamo domani, ciao. Ehi Acra, aspetta che ti parlo lì da vicino così, io non parlo più, parlo lì da solo. Ciao Claudio. Ciao Butubuhu. Ciao Daniele. Caspita, ti sei avvicinata per salutare. Ma tu mai si mangiano un microfono come te chi sono la riga. Da lontano, Daniele, da lontano, delicatamente. E già lo sai che sono la bocca che vanno. Ma tu mai si mangia la cuffietta. No, dai, saluta la bella vittoria, non c'è bisogno. Ciao Claudio. No, da domani il punto domani, io non ci sono più domani. Va bene, e a me mi fa solo piacere, siamo due giardiniere, un buco d'uio, la buibugnetta. Ciao a tutti, buco. Ciao Antonio, buonasera anche a te, dai, siamo in chiusura, ciao Massimino, ci aggiorniamo domani, magari al telefono, dai. Ciao Daniele, ciao a Gaia, un bacio e ci sentiamo domani, adesso vado a mangiare, ciao. E anche io, dai, ciao Antonio, ci sentiamo le prossime, dai, stavo provando due cosettine così, va. Va bene, ricordati che sono sempre in cerca del 60, a metà di numero, Ciao, buona serata. Io cosa ti ho detto? Tu c'hai carta bianca su una cosa, no? E allora lavoraci, scendi, fai, te l'ha già detto, basta che lo fermo ora. Da lì può uscire l'MC60, tu dovrà lì. No, va bene, no. lo so, ci sto lavorando, calla, giustamente lascia la bella da niente, tu, capito mi hai? Va bene, dai ragazzo, che mi faccio un girettino là, dove tu sai, e poi vado a pappare che è quasi pronto, va. Ciao Antonello, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, ci sentiamo, fino a radio per qua. Ciao Claudio. Eia, ciao Massimiliano, ciao Elio, dimmi. Buonasera a tutti, guarda che c'è un MC60 in vendita, c'è il suo, nuovo, una tantina di euro. 80 nuovo? Nuovo, praticamente usato ma è nuovo, come dicevano, lo sai che loro non le tirano, ma non è. Ok, va bene, è fatto bene a dirmelo, così vediamo subito di metterci in movimento. Sì, per Massimiliano c'è l'85, ma anche se esce bene, lo senti, però non le piace, esteticamente vuole 60, va bene. Grazie Elio, vado a mangiare, un abbraccio. Salutami a Rita, ciao a tutti! Ciao, ciao! Io sto dicendo a te, l'MC60 perché si era di motore, scusa. Ciao, buona serata, ciao! Va bene, ciao! Cocco, vendo fucile per ammazzare gli armatori, c'è nessuno che lo compra? Ciao, Antonio, stanno a mangiare, ciao! ciao, buona cena, non ti preoccupare! Elio, Elio Barbato, ci sei? Curioso, non risponde. Marco, ci sei? Marco Condor?